Nel giorno in cui la crisi finanziaria ha finalmente attraversato l'Atlantico, non sono bastati per evitare il panico sui mercati di tutto il mondo 5 salvataggi o nazionalizzazioni di banche negli Stati Uniti e in Europa e una enorme iniezione di liquidità da parte delle banche centrali cappeggiate dalla Federal Reserve. Dopo che il Congresso americano ha bocciato la proposta di intervento pubblico per tenere a galla il sistema bancario, c'è da chiedersi quali strade potranno tentare i governi e le autorità monetarie per interrompere una spirale che nelle ultime 2 settimane ha assunto toni drammatici e sfiora oggi l'orlo del baratro. Non intendiamo cedere alla paura e prenderemo tutte le misure necessarie per ristabilire la fiducia sui mercati, ha detto ieri il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi dopo aver presieduto ad Amsterdam la riunione del Financial Stability Forum, che raggruppa le autorità di tutte le economie più importanti. Ma per il momento i mercati non hanno nessuna voglia di ascoltare, soprattutto se all'ondata di liquidità delle banche centrali e agli interventi di salvataggio caso per caso, la politica americana dimostrerà di non saper fornire risposte in tempi brevissimi. Le vicende di ieri autorizzano allo scetticismo e quindi al pessimismo sulle prossime tappe della crisi.